Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Le 15 in punto e 15 siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, passioni. Parleremo anche di sport, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola e l'hashtag, sempre per chi usa Twitter, come lo sapete il sabato il villaggio è troppo lungo, usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme: bambini e cucina e anche televisione, perché no, i grandi litigano, addirittura si fanno causa, i piccoli no, fortunatamente. Nostra ospite è una signora amatissima dal pubblico italiano, tutti i consigli avremo di Lidia Bastianich. Ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parliamo di televisori, poi tanto cinema con tutte le novità nel weekend, ma subito, voglia di aria aperta, voglia di primavera, voglia di una eterna passione. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I want to ride my bicycle, voglio andare in bicicletta, voglio andare in bicicletta e anche a vedere delle corse in bicicletta, perché si parla poco di questo sport perché è sempre soffocato dal calcio. Però quando c'è bel tempo non c'è niente di più bello che una gita in bicicletta, oppure una di quelle gite che si fanno in famiglia per andare a vedere passare una gara. È una cosa che io facevo sempre da bambino in famiglia, poi magari ve lo racconto anche. E per parlare di bicicletta abbiamo il super esperto di Radio 24, perché lui si è fatto un sacco di gare da cronista. Buongiorno e benvenuto al Sabato di Villaggio a Dario Ceccarelli. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dopo questa presentazione ho una responsabilità enorme. Aspetta che accendo anche Periscope, perché così i nostri ascoltatori ti vedono anche. Allora Dario, per qualche anno si è parlato meno di ciclismo, tanti scandali, tanti scandali, doping, la brutta storia di Pantani. Adesso però mi sembra che si stia un po' ritrovando, sarà anche un po' la stagione, l'amore per il ciclismo. Sì, il bel tempo aiuta, le prime gemme sugli alberi e tutto quanto fa ciclismo. Ecco, Le gemme sugli alberi che fanno ciclismo ci piacciono. Sì, però sì, quello che dicevi è vero, per anni il ciclismo è stato come in un cono d'ombra dovuto ai problemi che elencavi, dovuto soprattutto così all'elaborazione di un lutto che era la morte di Pantani, che come è stato così una cosa non mai completamente elaborata, e quindi tutte queste cose hanno allontanato un po' il grande pubblico dal ciclismo, anche se il ciclismo mai come adesso vive una vera giovinezza, perché tutti vanno in bicicletta, se vai in Liguria al sabato mattina le strade sono piene di cicloamatori a gruppi di 100-150, alcuni giovani ma molti anche anzianotti con la panciotta che vanno, e che dico, ma dove vanno tutti questi qua, tutti super attrezzati, tutti con la gita del giorno in testa, e poi vai sulle colline, anche lì trovi gente che vanno in mountain bike, vengono dalla Germania, dalla Francia, cioè noti, e poi lo vedi nelle città con il bike sharing, lo vedi con le famiglie, vedi che a scuola ormai le mamme cominciano a capire che non bisogna andare col quattro ruote ma con due ruote in bicicletta, eccetera, eccetera, capisci che c'è un desiderio di andare con un mezzo più agile, e la bicicletta rappresenta questa cosa. Tra l'altro devo dire che tra le grandi passioni degli italiani c'è quella appunto appunto, lo dicevamo, di andare a vedere passare le corse. Io mi ricordo che da bambina mio nonno ci faceva stare a casa da scuola se il Giro d'Italia passava dalla nostra città, passava da Vimercate, insomma, in questi giorni è famosa per, purtroppo per ben altre notizie. Quest'anno non ci passa, no, però il Giro d'Italia, quindi niente, non vado, tutto no, tranquillo. No, scherzi a parte, il nostro Dario Ceccarelli, anche lo sapete, l'autore del graffio, quindi non può non graffiare. Dario, cioè, come, dacci qualche consiglio, quali sono le corse da seguire adesso in questo periodo? Beh, in TV se sono lontane, e invece certo, andarle a vedere se sono, no, vicine. Mi, ecco, ricordo che mi dicevi della, così, del Giro d'Italia, sì, mi fa venire in mente quando anch'io ero sulla macchina che si andava verso le città e i paesi più improbabili, anche quelli del sud, dove appunto c'erano tutti questi carabinieri sudatissimi che cercavano di tenere la gente lontano. Adesso per un attimo l'Italia c'è un, così, una pausa, nel senso che dopo la Milano-Sanremo, che è la classica di primavera, adesso si è andati nel nord. E ho visto delle immagini di ciclisti caduti, sì, l'uno sopra l'altro. Al Giro delle Fiandre. Ah, si sono fatti malissimo. Sì, è quello che dicevo prima, che ormai c'è un tale seguito comunque in queste corse, soprattutto al nord, perché il nord non ha vissuto come noi questo distacco dal ciclismo. Il nord, il Belgio, ad esempio, quando c'è il Giro delle Fiandre, vuol dire che un milione di persone si piazza sulle alture del Giro delle Fiandre, ed è come il Maracanã in Brasile, cioè sono tutti lì, in Belgio ci saranno 8 milioni di persone, un milione è lì sul Giro delle Fiandre, e quindi è uno spettacolo incredibile, tutti vogliono seguirlo, i giornalisti pure, i fotografi pure, e alla fine qualcuno si infila dentro e fa dei casini, diciamo la verità, e questo però con gravi conseguenze poi sulla così, incolumità dei corridori e anche del pubblico. Vabbè, insomma, se si fanno male non è bello. Dario, hai detto, mi raccontavi in particolare quest'anno, il Giro d'Italia quando è? Il Giro d'Italia parte il 9 maggio e finisce il 31, e parte da Sanremo e ritorna a Milano dopo un po' di anni che non si tornava più a Milano, che così. E quindi nel frattempo le altre le guarderemo in televisione. Sì, però prima, ecco, di ritornare arrivare al Giro, vorrei segnalarvi domani c'è la Parigi-Roubaix. Sono nomi che evocano. Sì, è la cosiddetta corsa delle pietre, la reina, la regina, dicono i francesi, perché è una corsa che è di altri tempi. Ci sono alcuni tratti, quelli del pavé, no? Che sono circa 52 chilometri, dove si corre proprio su dei pietroni aguzzi che sono stati mantenuti così proprio perché per poter rievocare e rifare ogni anno questa corsa. In realtà i contadini li vorrebbero liberarsi di quello, che in pietre. Francia, che hanno un senso della tradizione e della storia molto più marcato del nostro, li hanno fatti diventare un monumento nazionale, come una, non so, una cattedrale o come un grande monumento. E quindi domani si corre questa corsa che è un vero appuntamento per i francesi. Primo perché è una corsa dove può succedere di tutto: clavicole rotte, forature, gente che va a gambe all'altra. Quando arrivano al traguardo, o sono infangati con dei mascheroni pazzeschi, oppure sono pieni, bagnatissimi, fradici, ed è uno spettacolo vederli già arrivare, solo quello. Ma poi è anche bella perché può succedere di tutto, quindi può vincere chiunque, però deve essere molto forte, molto fortunato e molto coraggioso. Bello, mi piace un sacco. Poi altre gare che ci puoi segnalare in attesa del Giro? In attesa del Giro, poi dopo appunto abbiamo detto il Giro delle Fiandre che è già stato fatto, domani la Parigi-Roubaix, dico il favorito che è un norvegese, Christoph, purtroppo per gli italiani in questo periodo non va tanto bene, perché non abbiamo più corridori proprio per quel tipo di gare. Nel passato avevamo avuto i Francesco Moser e soprattutto Monsieur Roubaix, che era Franco Ballerini, che è stato un grandissimo corridore CT della nazionale, morto purtroppo qualche anno fa in un incidente in un rally. Ma chiuso questa parentesi, così purtroppo che dovevamo fare, dicevamo appunto che le altre corse saranno la Liegi-Bastogne-Liegi, che a me fa sempre ridere perché è uno degli pseudonimi di Maccio Capatonda, sì, per gli appassionati di cinema e di comicità. sorridono ogni volta che sentono Liegi Bastogliegi. La Liegi Bastogliegi è detta la Doyenne o la Decana, perché è la più antica corsa in assoluto del ciclismo. Cioè, siamo a 1863-64. Mm-hmm. Io adesso anch'io mi perdo un po' perché tutti nei tuoi numeri, appuntini, ecco, non io c'è, ho cercato di portarli. Ma... E poi dopo c'è la Freccia Vallone, che è una corsa molto bella perché arriva a, in un posto dove c'è un muro che si chiama il muro di Wi, che si ripete tre volte ed è una salita al 25%, per cui 25%? È una cosa pazzesca, è quasi con la picozza. Esatto. Free climbing. E quindi quando facevo quel mestiere, cioè, di giornalista di ciclismo, io mi mettevo nel bar dove, di fianco alla salita, e vedevo passare questi qua lentissimamente, perché ovviamente a 25% di pendenza, e mi pigliavo tutti i miei appunti e mi bevevo anche una birra. Come ah, sì. Certo, mentre questi pedalavano col 25% di pendenza, tu una birra, mi sembra giusto. E poi c'è l'Amstel Gold Race. E poi dopo, queste sono quelle importanti, e dopo ci si avvicina al Giro d'Italia, dopo ci sono varie corse di Giro del Trentino e altre che però sono solo un preludio a questo grande aspirapolvere che è il Giro d'Italia, che ti porta Bello, mi piacciono queste istruzioni per l'uso, perché noi parliamo sempre dello sport come se fosse già per iniziati, invece se qualcuno si vuole avvicinare al ciclismo anche come spettatore, io ho scoperto da Dario Ceccarelli una cosa curiosissima. Allora, Giro d'Italia passerà per la Liguria, abbiamo detto che dalla Brianza non passa, quindi quest'anno non devo andarlo a vedere, ahimè, perché mi piace così tanto andare a vedere il Giro d'Italia. Passerà dalla Liguria in Liguria, cosa succede? Ah sì, adesso diranno che noi ce l'abbiamo su quei liguri che si fanno sempre le barzellette, le battute sulla proverbiale come parsimonia, diciamo, sì, così, dei nostri amici di Genova. Sì. Ecco, la vicenda è questa, che appunto il Giro d'Italia parte dalla Liguria. Con, praticamente ci sta tre giorni, se non sbaglio, addirittura quattro. Ecco, e allora c'è un problema, che in alcuni tratti delle strade dove passerà il giro bisogna rimettere a posto, asfaltarle, togliere le buche, eccetera, eccetera. E però sappiamo che questo è un problema, è un periodo in cui di soldi nel giro ce ne pochi, generale. Quindi figuriamoci: le palanche sono poche. Le palanche non ci sono. E allora hanno inventato questa cosa qua, che siccome non si può mettere a posto proprio tutto, verranno messi a posto solo i tratti in discesa, perché così cioè, in discesa, dove si va più veloce, c'è il rischio di buche, perché è più pericoloso, eccetera, allora quelli vengono messi a posto. Quelli in salita, vabbè, si aspetterà il prossimo Giro d'Italia, il prossimo Consiglio dei Ministri, non so, adesso magari Renzi qualcosa ci inventa anche a questo proposito. Senti Dario, ma per chiederti un consiglio, per chi volesse andare a vedere da spettatore il giro, dove si conviene andare? Io immagino, se c'è un rettilineo, sfrecciano, è bello vederli sfrecciare, ma dura un attimo. Guarda, gli esperti, quelli veramente che se ne intendono, vanno nei punti dove sta per finire la salita, no? Ah. E quindi già il giorno prima, non so, quando c'è il Mortirolo, eccetera, vanno con i loro mezzi, alcuni addirittura con le camper, si piazzano lì la tenda, eccetera, eccetera. Quindi diventa tutta un'occasione per bere, mangiare e aspettare i corridoi. Beh, lo pieno spirito sabato del villaggio. Esatto. Sì. Questo. E poi ci sono i patiti, che invece salgono su in bicicletta proprio per emulare i loro beniamini, e quindi li vedi arrivare quando ormai mancano pochi metri al passo della montagna, che ormai come mosche che stanno impazzite arrivano lì fradici, gioia un po' sadica, sì. Li vedi che ondeggiano qua e là, perché ormai non hanno le farfalline, come si dice, no? Per cui, e questi qua sono così poveracci, dei veri fakiri della passione, ecco. E poi c'è invece quello che ama vedere l'arrivo al traguardo, e quindi si piazza proprio dove ci sono le transenne. Però è uno spettacolo limitato, perché tu li vedi arrivare in un battibaleno, per cui è come uno sparo, cioè quindi non è, vedi solo una gran confusione, questo mucchio selvaggio che arriva, e per cui senti uno speaker che ride, è già finita. È come, ecco, una cosa un po' troppo veloce. Ma chi sta facendo dei doppi sensi, Dario Ceccarelli? No, assolutamente. No, è perché voi siete alla radio e non vedete la faccia malandrina, perché lui sta facendo la faccia malandrina. Allora vorrei darti un consiglio un po' in musica, Valeria, in regia. scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada. E beh, insomma, il consiglio non poteva che essere pedala, Dario. Pedala. Abbiamo voluto questa bicicletta e quindi pedaliamo. E comunque no, è bello pensare di, ecco, il mio grande cruce è questo, che il ciclismo in Italia è poco popolare in un momento in cui, poco popolare fra virgolette, perché comunque ce ne sono ancora tantissimi di appassionati, in un momento in cui invece la gente, quella che con doppia G, sta veramente avvicinandosi in modo costante, quotidiano, alla bicicletta. Quindi è una forbice questa, che sarebbe bene che si chiudesse, perché mai come adesso c'è una potenzialità per questo sport. Purtroppo appunto paghiamo un po' alcune sbagli che sono stati fatti nel passato, comunque delle storture di questo sport che comunque è così e resta sempre affascinante. Dario, ti aspettiamo allora per quando inizia il giro? Va bene, io obbedisco, sono pronta. ti rapiamo al sabato del villaggio quando comincia il Giro d'Italia. Grazie a Dario Ceccarelli per essere stato con noi, e andiamo proprio a vedere cosa sta succedendo su strada e autostrade anche per chi è in bicicletta. Eccoci qua. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta il sabato del villaggio. E siamo ancora insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, i liberi consigli per il fine settimana, il nostro tutorial per un bel weekend, per sapere tutto dei grandi fenomeni in cucina, in televisione, ma insomma sentiamo un po' chi abbiamo insieme a noi al sabato del villaggio. Aragosta alla catalana è un piatto molto bello, complesso, però semplice al stesso tempo. La semplicità è una cosa molto difficile. Ma devi pensare bene chi ti vuoi trovare alla finale con te, quello lì, sì. La meta, eh? Io vorrei trovarmi Andrea Pace in finale. Non rischia, non... E allora forse i suoi piatti non... Ti fanno un po' paura, quei due? Abbastanza. Ok. Sono contenta di avere come ospite telefonica, perché è un po' lontana, la raggiungiamo dall'altra parte dell'oceano, un personaggio amatissimo dagli italiani e dalle italiane. Noi la consideriamo italiana al 100%, anche se appunto abita un po' lontano. Tra poco, tra pochissimi giorni, torna con Junior Masterchef. Buongiorno alla signora Lidia Bastianich, buongiorno! Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Che meraviglia, ma lei lo sente questo affetto nei suoi confronti in Italia? Marta, lo sento e lo contraccambio, perché quando torno in Italia mi sento molto a casa, insomma, mi fermano per la strada e questa conoscenza, insomma, di me come persona, questa connessione mi rende molto molto felice e anche apprezzo molto. Cosa le chiedono, consigli quando la fermano? Ma vogliono tutti vogliono sapere dei ragazzini, ma certo. Sono così bravi, ma veramente sanno cucinare? E poi sì, e poi la seconda domanda è sempre Gio, ma Gio è veramente così? È come che e allora questa qui sono le due domande. Devo dire che Gio l'abbiamo avuto ospite 2-3 settimane fa, ma come musicista, perché lui ormai qui è un musicista, un conduttore televisivo, si sta quasi dimenticando di fare il cuoco. Lei invece torna appunto con questi ragazzi di Junior Masterchef. Ma davvero la curiosità è legittima, perché sono incredibili, cioè io mi sento veramente una nullità a vedere bambini di 8, 9, 10 anni così bravi, ma quindi davvero sono così? Ma Marta, davvero, davvero sono proprio così bravi, fanno dei sbagli e tutto, però sono bravissimi, hanno una passione, vogliono essere lì, hanno questa grinta e poi anche questa essere ancora giovane, essere ancora bambino, fra di loro cucinare insieme, comradarli e tutte queste cose, è affascinante a lavorare con loro e devo dire quello, tante volte ci stupiscono a noi chef giudici lì, sfilano il loro pesce da se stessi, disossano diciamo un pollo, guarda che sono cose, però lo fanno con una certa facilità, perché si vede che amano, si vede che l'hanno fatto prima e anche se ho sbagliato qui e lì è normale. Che cosa l'ha stupita dei bambini italiani? Perché noi guardavamo le versioni straniere, non pensavamo che anche i bambini italiani, che a volte noi diciamo si fanno distrarre dai computer, dai giochi, dai telefoni, invece a noi hanno stupito tantissimo. Lei cosa l'hanno stupita? Guarda, mi ha stupito quanto sono vicini alle loro radici e alle culture regionali, ognuno delle loro famiglie, perché inevitabilmente portano avanti un discorso di gusti della casa, della famiglia, del locale da dove vengono. Sì, sono influenzati da questi nuovi show di presentazione di questi super chef, però il ritorno è sempre a fare la pasta, a fare i gnocchi, a usare quelle semplicissime basi che si fa in famiglia regionalmente in Italia, e quello mi ha stupito molto, anche la loro conoscenza dei prodotti, della stagionalità, delle abbinazioni, dei gusti, anche se vanno un po' fuori strada, che azzardano, ritornano sempre a quella realtà che è la famiglia italiana, il gusto italiano, e quello lì dice molto, perché diciamo, come i bambini americani forse hanno più difficoltà in questo, perché l'America è grande, ci sono tante culture, comunque mescolano un po'. I bambini italiani sanno il cibo italiano, sì, guardano il resto del mondo, però sanno bene la loro terra e i prodotti, che è bellissimo. Quanto è importante avvicinare i bambini alla cucina? Lei negli ultimi libri si è firmata anche nonna Tell Me a Story, Nonna's Birthday Surprise, poi lei ha i suoi nonna foods, i cibi della nonna, quindi insomma, quanto è importante avvicinare i nipoti, i bambini alla cucina? E sempre più, guarda, anche tutta questa l'Expo che è dedicata, adesso l'Expo a Milano che è dedicata al cibo, a capire il cibo, alla preservazione del cibo, a non sprecare il cibo. Dunque questo qui tutto nasce da bambini, tanto fa che Junior Masterchef ha anche un progetto zero sprechi, credo, per le scuole italiane, per i bambini, dunque è molto importante dai bambini, da piccolini, da piccolini piccolini che sono vicini, che sentono gli odori della cucina, delle cose, che conoscono l'odore del basilico, del pomodoro, del cavolo, anche malgrado che tante volte l'odore del cavolo non è piacevole, devono conoscere queste cose, perché quando vengono all'età di mangiarle, queste cose non sono estranee, sono cose che già conoscono nella loro mente, gli odori sono lì. Tanto fa che io predico sempre, ho fatto con i miei bambini, quando sono anche 2-3 mesi, prendo una foglietta di basilico e la schiaccio sotto il naso, così che loro incominciano a raccogliere questa libreria di gusti, di sensazioni. Quando sono grande l'avranno nella loro libreria dei gusti, e quando si mettono lì a mangiare richiameranno, o cucinare, richiameranno di questa libreria tutto. Dunque è importantissimo per loro, per nutrimento, è importantissimo anche che sappiano un po' a gestire, a curare questo mondo, perché se andiamo così avanti, come dicono tutti, la vediamo brutta con non curarsi, insomma, dell'environment. È vero, verissimo. Le chiedo un consiglio: come avvicinare i bambini alla cucina, al piacere di cucinare e di mangiare? Perché sa, gli stimoli sono tanti adesso per i ragazzi, spesso poco sani dal punto di vista alimentare. Sì, ma bisogna includerli in ogni processo, andare a fare la spesa con loro, andare all'orto, andare al mercato, a prendere in mano, toccare, sentire le sensazioni, gli odori di questi prodotti, parlare con loro, no? Primavera, stagionalità è molto importante perché rende tutto più facile, i gusti sono più buoni, il nutrimento è più intenso se mangi qualcosa subito lì, e poi anche il costo è meno se non fai volare, diciamo, delle fragole 2000 chilometri per averle in dicembre, diciamo così. Dunque è importantissimo dall'inizio a prendere i bambini con sé. È importantissimo cucinare in casa, no? Dunque quegli odori, quei gusti, e fare i bambini partecipi, perché alla fine quando cucini un bel piatto hai conquistato, hai fatto qualcosa, hai fatto una creazione, una cosa bella che poi condividi, dunque è anche un senso di vincita, di self-expression, self-esteem, diciamo, per questi bambini. Naturalmente che i bambini piace sempre i dolci, dunque iniziare con i biscottini, con queste cose che sono cose anche facili per loro a gestire. Manualità è molto importante, di toccare il cibo, di impastare quei gnocchi, di fare quel biscottino, tutte queste cose qui, coinvolgerli, anzi anche la mamma quando sta aspettando il bambino, che cucina a casa, che ingeste questi gusti naturali e tutto, già inizia il bambino, anche se nella mamma sta crescendo, inizia a prendere questi odori, queste sensazioni. Dunque è importantissimo da quando inizi a pensare ad essere mamma fino a che poi lasciano la casa, ad essere con loro in cucina e coinvolgerli e dargli il gusto di cucinare. Maschi e femmine, anche perché poi i grandi chef spesso sono maschi, invece vogliamo vedere anche tante signore a dominare le brigate di cucina, non ce ne sono ancora tantissime. Guarda, che io direi le grandi cuoche, anche in Italia, le grandi cuoche sono sempre le donne, insomma, diciamo. La nutrizione, del nutrire, nurture, diciamo, è sempre stato quella della donna, no? Nel senso, l'uomo è stato sempre il cacciatore, quello lì, ma la donna è sempre. E adesso un po' ha cambiato, nel senso che il lavoro di cuoco è proprio una professione ufficiale e i maschi se ne rendono. Però la donna rimane sempre il grande protagonista, io credo. E ci sono tante grandi donne cuoche lì fuori, e io credo sempre più, Meno male, dunque, meno male. Però prendere in cucina i maschietti e le femminucce, tutte e due. Sono contenta. Signora Bastianich, le devo chiedere un'ultima cosa che è una mia curiosità. Ma lei, dopo tanti anni negli Stati Uniti, come fa a parlare così bene ancora l'italiano come fosse andata via 2 giorni fa? Lo parla perfettamente ancora? Guarda, no, cioè faccio dei sbaglietti qui e lì. No. Sono andata via, sono venuta in America che avevo 12 anni. E dunque, devo dire che anche a casa si parlava, sa, il dialetto, noi veniamo di su, del Friuli Venezia Giulia, dunque il dialetto triestino, istriano, sempre si parlava a casa. E anche oggigiorno con mia madre, 94 anni, abita con noi, tanto quando con Gio, con Tania, la mia figliuola, si parla sempre il dialetto, e i nipotini anche, però naturalmente io avevo sempre, non volevo, sta venendo come giovane emigrante qui e assimilandomi subito ad essere americana, perché a 12 anni sono diventata americana, non volevo mai perdere l'italianità, perché sapevo che questa è una cultura talmente preziosa, talmente ricca, e tanto è che ho costruito tutto quello nella mia vita che ho costruito attorno alla cultura italiana, la cultura culinaria italiana. E dunque i miei ritorni di rinfrescamento, di ricerca durante gli anni sono stati tanti, anzi due settimane fa ero in Italia con 3 dei miei chef americani, uno era italiano, a fare sempre le ricerche. Siamo andati giù un po' a Roma, la cucina di romana proprio, e poi siamo andati giù nella Puglia perché adesso sono le cicorie, tutta la primavera, e dunque è un continuo riallacciamento a la cultura italiana, la cultura mia d'origine, dunque forse per questo desiderio grande di mantenermi aggiornata è anche parte del perché forse parlo l'italiano così perché lo voglio parlare bene. Che meraviglia, e anche per questo c'è tanto affetto nei suoi confronti. Io non vedo l'ora che sia il 15 perché voglio vedere la nuova edizione di Junior Masterchef e provare dell'invidia nei confronti di questi bambini che fanno cose che io non saprò fare mai. Guarda, datti un po' di coraggio Marta, però questo è la seconda edizione, è stupenda, perché devo dire anche io e credo gli altri giudici, sa, all'inizio con questi bambini, ma come reagire? Sì, sono nonna, sono mamma, ma però sa, sono sempre giudice anche quelli. E dunque questo secondo episodio, questo secondo second edition, io mi sento molto rilassata, molto comunicativa con i bambini, anche loro, e credo anche Bruno e anche Alessandro. Dunque è una second edition fantastica. I bambini erano fantastici, sanno cucinare, e Marta sì, forse ti metterà un po' in pensiero, però guarda, io credo in te Marta, dai, vai in cucina. Sì, mi applico, questa sera cucino qualcosa, poi le faccio sapere com'è andata. Grazie. Mandami un little message. Grazie a Lidia Bastianic per essere stata con noi. A presto in Italia. Arrivederci a tutti. Sì, sarò lì in maggio per l'Expo e così continuo poi. Dunque, buona visione a tutti. Junior Masterchef che inizia ad andare in onda mercoledì il 15 aprile. Perfetto. Grazie mille, grazie Lidia. È stata grazie veramente a tanto tutti. Carina. A presto. A presto. Ciao Marta. Grazie. Il sabato del villaggio. È il momento di occuparci di tecnologie nel nostro spazio per i liberi consigli del weekend. Intanto vi ricordo il numero per i vostri sms, 349-238-6666, il mio account di Twitter, @MartaCagnola, perché io vi tengo compagnia fino alle 18, ma anche voi tenetemi compagnia. Di cosa parleremo nello spazio delle nuove tecnologie tra qualche istante? Vabbè, è facile indovinarlo. Non resisto alla tentazione. Io ogni volta che parlo di televisori devo mettere questa canzone. Cioè è una mia fissazione, una canzone che io adoro. E quindi Enrico Pagliarini ogni volta deve sorbirsi The Sun Always Shines on TV quando mi dice parliamo di televisori. Ciao Enrico, chissà dove sei. Ciao Enrico. Chissà dove sono. Buongiorno a tutti. Sei collegato. La magia delle nuove tecnologie è che ci si può collegare e non sapere da dove l'altro è collegato. Perché sì, tu sei smartphone, microfono che, e dove? Sì. C'era uno che scriveva somewhere on the net, quindi da qualche parte nella rete. Esatto. Beh, sì, io sono perché? Da qualche parte nella rete, come si dice. Allora, primo consiglio del giorno: sì. Non comprare un televisore, acquistare una bella radio da mettere in cucina. Ah, mamma mia, ma no, ma ci vuole anche la TV, ci vuole anche la TV. Sì, ogni un tanto. Po'. Visto che molti hanno questo vizio, ma no, anche noi perché siamo poi consumatori di TV. Si ascolta la radio anche tramite la TV, no? Sì, tranne noi, quindi su questo non andrei oltre. Non siamo sul digitale terrestre, intanto qualche ascoltatore mi scrive. Siamo su Sky, però. Sì, siamo esatto, su Sky. Siamo su Sky. Siamo sì, su Sky. Canale 700 di Sky, esatto, esattamente. Esatto. Sì, sì, sì. Allora, dici, oggi vogliamo posto parlare di che curve. Enrico Pagliarini è contrario al consumo della televisione sì. in generale. Sì, esatto. Voleste voi comprare un televisore? Ma pensa un po'. Esatto. Allora, oggi parliamo di curve perché una domanda domanda che, diciamo che ultimamente molto spesso mi viene fatta, è una domanda, o più domande sui televisori curvi. Allora, sapete che da un paio di anni, ma direi che soprattutto negli ultimi mesi li stiamo vedendo nei negozi, o comunque nei negozi online su internet, c'è una sorta di piccola invasione di televisori curvi. E sono belli? Cosa, sì, sono belli. Sono, da questo punto di vista, forse è l'unica cosa che va salvata di questi televisori, perché io sconsiglio fortemente di comprare televisori curvi. Allora, una volta i televisori erano curvi perché la curvatura era verso l'esterno, adesso la curvatura è verso l'interno, quindi siamo tornati alle vecchie curve dopo che la grande rivoluzione erano i televisori piatti. Allora, direi che possiamo continuare tranquillamente a comprare televisori piatti per tutta una serie di motivi. Chi ci vuole vendere questi televisori curvi ci dice che offrono un maggiore coinvolgimento perché di fatto ci avvolgono. Allora, questo è vero solo se siamo molto vicini. Ad una distanza che molti italiani direbbero no, sono troppo vicino al televisore. No, anche perché le nonne ci hanno sempre sgridato, ci facevano sempre allontanare dal televisore. Beh, su questo potremmo aprire un dibattito. Insomma, bisogna stare non troppo lontano, ma nemmeno troppo vicino. Poi ci coinvolge se il televisore è molto grande e quindi si avvicina, diciamo, a delle tra virgolette sproporzioni tipo quelle del cinema. E poi, soprattutto, la cosa fondamentale, questa la capiscono proprio tutti, ci coinvolge se noi siamo al centro della curvatura, cioè se siamo al centro di quel cono immaginario che si forma con la curvatura del televisore e noi al centro. Allora, già se o ci spostiamo, quindi magari siamo su un divano e ci spostiamo su un fianco, oppure con noi, come capita spesso quando si guarda la TV, c'è qualcun altro. Però quelli che stanno ai lati sono più sfortunati e quindi tutti i vantaggi di questo coinvolgimento che ha chi sta al centro non ce li hanno, quindi le cose sono addirittura peggio rispetto allora, ad un televisore. Posto che mi piacciono come oggetti perché sono proprio carini, cioè mi stai facendo capire che se io allora devo sedermi sul mio divanino due posti proprio al centro e se, come faccio tutte le sere, voglio farmi un po' di pisolino e mi metto di fianco, già non lo vedo più. No, vedi. Non è che non vedi, però. Però diciamo tutti i benefici di questa curvatura vengono persi e quindi sono assolutamente inutili. E visto che questi televisori tra l'altro costano un poco di più rispetto ai corrispondenti TV piatti, beh, direi che da sconsigliare. C'è un altro aspetto che ha a che fare col design. A chi piace questo tipo di televisore, diciamo, può essere una scelta di design da mettere in casa, però non dico scordiamoci di appenderlo, perché c'è modo di appenderlo anche se il televisore è curvo, però sicuramente il bel televisore piatto che sostituisce addirittura in alcuni casi un quadro, perché si può appendere in una bella parete magari spoglia di altro e il televisore da solo fa bella figura di sé, beh, col curvo dimentichiamocelo, a meno che, come ha scritto qualcuno su internet, abitiamo in un igloo o in un trullo, ecco, si sposa bene posto che l'angolo di curvatura sia se avesse la fortuna di possedere un trullo, l'enorme fortuna, dovrebbe comprare un pensa come sta bene, no? Hai ragione. Ah sì, potrebbe essere una scelta. Beh, devo dire che io che ho comprato quando ho comprato il televisore, io mi sono fatta consigliare in tutti i modi da Enrico Pagliarini. Enrico se lo ricorda, ormai è passato qualche anno perché non è nuovissimo, sì. E io gli avevo detto: guarda Enrico, l'unico requisito è che deve avere la cornice bianca, quindi capisco se uno si compra il televisore curvo solo per la parete. Certo, ma devo dire che oggi avresti più difficoltà perché ormai i televisori ormai non hanno più cornice. Non ce l'hanno più, guarda, io l'ho comprato 4 anni fa, quindi sembra un secolo e mezzo. Sì, devo dire che in generale noi oggi spendiamo alcune parole per consigliare ai nostri ascoltatori cosa non comprare, quindi non comprate le curve, andate tranquilli su questo. Devo dire che bisognerebbe spendere tempo prima di fare questo acquisto, perché sicuramente questo è un prodotto che ci dura molto, molto più dello smartphone, che dopo 3-4 anni comincia a diventare molto vecchio, e il televisore è una cosa che ci dura una decina di anni. Quindi prima di fare un acquisto, perché il televisore ha 4 anni, ma non è che penso a cambiarlo, perché facciamo però le corna, potresti anche pensare. Allora, l'unico, ecco, però faccio una parentesi all'interno di questa di questi sconsigli per gli acquisti dei TV curvi. Allora, l'unica cosa che potrebbe valer la pena, stanno uscendo, direi che questa primavera, il mese di aprile è il mese in cui stanno cominciando ad uscire sul mercato dei monitor per PC che sono curvi, quindi diciamo la stessa dinamica che stiamo vedendo nel mondo dei televisori la stiamo vedendo nei monitor da computer, stanno uscendo proprio in queste settimane. Allora, in questo caso invece, visto che il computer, tant'è che si chiama personal computer, lo guardiamo, cioè il monitor lo guardiamo da soli, e visto che siamo effettivamente, se ci pensate, molto più vicini, cioè il rapporto, la distanza verso il monitor è molto più siamo molto più vicini rispetto al televisore, ecco, in quel caso potrebbe valer la pena fare questa scelta. Devo dire che i monitor per computer curvi sono pensati e sono particolarmente adatti per chi fa videogioco, dove il coinvolgimento è molto importante. Sì. Se tu stai molto vicino, chiaramente, se tu hai uno sparatutto e tu sei preso dalla pistola e devi sparare a tutti quelli, ai mostri che ti vengono davanti, chiaramente lì il coinvolgimento è molto importante. E allora, se uno pensa ad acquistare un monitor per il computer e videogioca, cosa che io ad esempio non faccio più da io tempo. Figurati, gioco solo a Candy Crush, quindi non credo ultimamente che ho fatto no, ultimamente ho fatto su Google Maps ci sono alcune città dove si può giocare a Pac-Man nelle vie della città, sì. E quindi tu giochi a Pac-Man nelle vie di una città. L'altro giorno a Rio de Janeiro ho fatto un po' di Pac-Man, ma vabbè, giusto per provare. Poi per provare, no, ci sono altre cose da fare. Sì, no, tu sei più serio di me. Ti chiedo solo una cosa prima di dare la linea alla viabilità. Oggi mi incastro. Hai detto che costano un po' di più i televisori curvi. Immagino che però costi anche di più fabbricarli. Beh, su questo ci sono pareri discordanti. Sì, allora sicuramente sì, c'è un extra costo che però non è giustificato dal prezzo di vendita. Allora, sicuramente questo è un prodotto su cui i produttori puntano molto. Perché sono un prodotto soprattutto di design, e quindi quando c'è di mezzo il design molte cose razionali, molte dinamiche razionali vengono meno, e quindi molti sono disposti a spendere qualche cosa in più per comprare un prodotto che magari piace, al di là appunto della qualità poi del prodotto. Quindi i produttori in questo momento stanno puntando soprattutto a questo e aggiungono qualche euro in più. Però io penso, ma fortunatamente non sono da solo, ci sono molti esperti di tecnologia che ritengono che siano soldi buttati. Poi se invece la prima motivazione d'acquisto è il design, benissimo, comprate un TV curvo. È un uomo pratico Pagliarini, lui è un uomo pratico. Io non lo comprerei. Questa però volta è lo sconsiglio di Enrico Pagliarini. Lasciamo lo spazio, esatto. Allora, adesso abbiamo lo spazio, diamo spazio alla viabilità, però dobbiamo ancora sapere qualcosa sulle app nuove da scaricare, con le quali giocare. Allora ci ritroviamo tra pochi istanti ancora con Enrico Pagliarini. Il sabato del villaggio. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV, we settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 canali e niente da vedere. Era d'accordo Bruce Springsteen con Enrico Pagliarini, ma anche con gli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 3498-6666, come Adriana da Roma dice: da anni senza televisore, che meraviglia. Beh, abbiamo intanto sconsigliato di comprare un certo tipo di televisori. Io la TV la guardo ancora, anche se lavoro alla radio, io lo confesso. Sì, ma infatti diciamo che comunque ci sono ogni tanto alcune belle cose, e poi uno si può guardare o un bel film in Blu-ray in alta definizione, oppure oggi ci sono servizi on demand, quindi uno può scegliere quello che vuole vedere, al di là dei palinsesti di questi 57 canali di Bruce Springsteen. Ecco. Era Bruce Springsteen, sì. Sì, 57 channels and nothing on. E adesso invece che 57 sono altro che 57. È una canzone del 92. Quindi sembravano tanti in America, ma allora app da provare. Allora, se andiamo a toccare le passioni, in questo caso passioni degli italiani, ma un po' in molte parti del mondo, ci sono decine o centinaia di app. Oggi la passione è quella del vino, e una delle app più note tra gli appassionati, però forse non famosissima per tutto il resto del mondo, si chiama Vivino, quindi non Divino, ma Vivino. Che bella, Vivino. Allora, Vivino è molto semplice da utilizzare. Ricorderete che recentemente abbiamo parlato di un'app, Edo App, che permette di inquadrare le etichette, il codice a barre, per avere delle informazioni. In questo caso il funzionamento è simile: si inquadra l'etichetta del vino con lo smartphone, quindi scaricando Vivino. E poi il database è piuttosto ampio, quindi oramai buona parte dei vini sono catalogati, si possono avere informazioni sul vino appunto inquadrando l'etichetta. Ad esempio, stiamo per fare un acquisto, vogliamo sapere se il prezzo è giusto oppure chi ci vende il vino sta esagerando? Beh, ci viene detto il prezzo medio di vendita. Poi ci sono vari giudizi che ne so, sugli accostamenti, ci sono i giudizi degli utenti, quindi anche per sapere se il vino è adatto a quello che vogliamo fare oppure se è buono, oppure gli utenti della community dicono che non è un gran vino. È sicuramente interessante, anche molto facile da usare. Poi si può partecipare, quindi poi uno può dialogare con gli altri utenti, dare giudizi, bla bla bla. Sistemi operativi? Per i principali Windows, no, beh, ho iniziato da quello per cui non è disponibile. Non ancora. iOS e Android. iOS e Android. Grazie Enrico. La prossima settimana ti aspetto in studio, anche perché non abbiamo potuto giocare con Periscope, visto che eri a distanza. Sì. Accidenti. Sì. Vabbè, magari faccio un Periscope per farci vedere dove sei, confessalo. Ci vediamo. Sì, va bene, adesso facciamo un bravo Periscope. Bravo, alla prossima settimana. Ciao, grazie ciao. Enrico Pagliarini, adesso parliamo di cinema. L'adozione delle prime unità di polizia interamente robotizzate ha fatto notizia in tutto il mondo nel 2016. Gettate le armi, siete in arresto! Vincent Moore è un ex militare. Il limite dell'intelligenza artificiale è la sua imprevedibilità. L'ideatore degli scout Dion Wilson intravede un roseo futuro. Punto a una macchina capace di pensare ed emozionarsi. Subito una bella atmosfera di fantascienza, direi, per il primo film in uscita questo fine settimana. Tutte le novità, come sempre, con il nostro Franco D'Assisti. Buongiorno Franco. Buongiorno Marta, un saluto a tutti i tuoi e ai nostri ascoltatori. Sì, effettivamente settimana interessante, con una decina di film anche questo weekend che arrivano nuovi in sala. Tanto a dominare c'è Fast and Furious 7, che rimarrà lì per me per settimane intere. Sta veleggiando oltre i 10 milioni di euro. Un incasso che è francamente strabiliante anche per una saga di grande successo come questa, ma giunti al settimo capitolo magari era difficile aspettarselo. Questo per dire che non sarà facile insinuarsi nei quartieri alti della classifica in questo weekend. Un film che potrebbe avere le sue carte è questo Humandroid, che appunto ha dalla sua alcune componenti. Intanto una fantascienza che però è una fantascienza family, una fantascienza simpatica, no? Abbiamo visto recentemente in maniera animata questo rapporto fra l'uomo è un robot che ha un'anima, un robot che spesso ne ha di più dell'uomo di anima, in Big Hero 6 per esempio. Certo. Lo ritroviamo con appunto questa veste invece live action in questo Humandroid, che a quelli che hanno qualche anno sulle spalle, tipo il sottoscritto, tu sei giovanissima, una bambina ricorderà per esempio l'andamento di un film che andò addirittura a Venezia alla fine degli anni 80, che si chiamava Short Circuit, cortocircuito. Era un film australiano dove c'era questo robottino che interagiva con la sua padrona, diciamo così, e che era un robot simpatico, molto, molto cool, e anche con un cuore. E quello che succede in questo film, in questo Humandroid, dove Chappie, che è il protagonista, è talmente più avanti in termini morali, etici, dei ragazzi con cui interagisce, che diventa un pericolo e qualcuno lo vuole addirittura eliminare. Lui e tutti quelli come lui e tutti quelli che fra i robot si pongono anche in maniera etica rispetto alle cose. Insomma, fantascienza al cubo, ovviamente, però un film che davvero col sorriso sulle labbra può accompagnare tutta la famiglia al cinema per una serata. Uscita italiana invece? Guarda, uscita italiana voglio segnalare, perché mi sembra la più importante, Se Dio Vuole, che è un film che segna l'esordio alla regia di uno sceneggiatore italiano come Edoardo Falcone, che ha nel cast in Marco Giallini e Alessandro Gassman, le due colonne portanti. per raccontare una storia che ci mette di fronte all'eterna sfida della fede, della religione, del credere o non credere, di come sta chi crede rispetto alle cose del mondo e di come sta chi non crede. E in questo caso quello che non crede è Marco Giallini, cardiochirurgo di fama internazionale, uomo tutto d'un pezzo, comunista e ateo, però di una borghesia romana emancipata, che si trova totalmente a disagio quando il figlio, uno dei figli, gli dice di voler diventare sacerdote. E chiaramente parte una controffensiva di Marco Giallini padre verso quello che è il sacerdote vero, Alessandro Gassman, che con il suo fascino ha di fatto stregato questo ragazzo e forse gli ha proprio messo in testa questa idea meravigliosa di diventare prete. Giallini cerca di demolire l'immagine di Alessandro Gassman, che invece è veramente un figo, come del resto nella vita di tutti i giorni. Io so che tu hai un parere in merito, e quindi insomma il film procede proprio per scintille fra i due. Dal titolo sembrerebbe che anche questo film possa parlare di religione, White God. Un po' sì, se vogliamo, metafisicamente, ma effettivamente, guarda, questo sai che per me è davvero la scoperta della settimana. È un film che è andato all'ultimo Festival di Cannes, ha vinto il premio A Certain Regard, che è la sezione, diciamo, collaterale del Festival di Cannes, collaterale ma ufficiale. È un film ungherese di un regista che, insomma, gli abitué dei festival conoscono, che è Mundruzko, ed è un film che si svolge in una Budapest odierna, contemporanea, isolata, estiva, dove questa bambina Lili viene lasciata in gestione, diciamo così, in compagnia del padre separato. La ragazzina ha un rapporto veramente di grandissimo affetto con il suo cane, come i bambini, solo i bambini sanno sviluppare un rapporto così con i loro animali. Il padre non è proprio dello stesso avviso. Una nuova tassa incombe sui cani meticci in Ungheria. Il tema è cosa farsene di questo cane. Parte un racconto su due piste: uno, quello del cane, e una discesa agli inferi che passa attraverso i combattimenti clandestini, attraverso canili lager, eccetera, e uno, quello della bambina che con tutte le forze lo cerca. E soprattutto ne viene fuori una vera e propria rivoluzione, e qui sta anche l'originalità del taglio che dà il regista. I cani sostanzialmente si coalizzano e fanno una vera e propria rivoluzione contro gli uomini. Dalle medie in su, secondo me, è un film da vedere questo, perché ricostituisce un andamento e un rapporto fra una bambina di 13 anni e il mondo animale, ma fra il mondo animale e il mondo degli umani. Un Certain Regard, che quest'anno la giuria sarà presieduta da Isabella Rossellini, quindi grande affetto. Ci stiamo avvicinando al prossimo. Il 16 avremo il programma. Per concludere, un flash invece sul padre, anche questo esce. Sì, anche questo esce da Venezia invece dello scorso settembre, e qui il film è di Fatih Akin, che ci ha abituato a storie di contemporanee. Qui invece racconta una storia totalmente diversa, quella di un padre, appunto, che parte dalla Turchia del 1915, prima guerra mondiale, persecuzione degli armeni, c'è dentro anche questo tema del genocidio degli armeni, le figlie che a un certo punto scompaiono, questo padre che le cerca per sempre sostanzialmente e dappertutto. È un film che è una vera e propria odissea, un'epopea di sofferenza, a qualcosa anche di cristologico, se vogliamo, in questa ricerca. Non a caso il protagonista si chiama Nazareth nel film. È un film che forse non è nelle corde di Fatih Akin, però valo nel senso che Fatih Akin forse ha un po' più dinamismo, e qui invece deve stare a una storia con più respiro, con più spazi, eccetera. Però Fatih Akin, va detto, ci prova comunque con la sua maestria, magari non ci riesce in pieno, però va detto che è un film grande proprio come pensiero, ed è un film importante per la sua filmografia, che secondo me va seguito comunque. Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Sì, parleremo anche, voglio dirlo, di Grease, il musical che è in scena al Teatro della Luna. Sei di parte, sei un fan dei musical. Ma tu lo sai che quando posso infilarci un musical di sapore cinematografico lo faccio sempre. Tra l'altro regaleremo biglietti ai nostri ascoltatori, quindi state con noi perché sicuramente vi divertirete. Grazie Franco, a sabato prossimo. Ciao. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, ancora con Marta Cagnola, con il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Vi ricordo invece nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, con tutta la tua della rete e dalla rete. Per contattarci l'SMS 349-238-6666, Twitter l'hashtag è ISDV e il mio account è @MartaCagnola. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Un grande ritorno. Da settimane parliamo del boom degli anni 90, lei ne è stata la regina, ma ha vissuto poi mille vite e ora torna con un nuovo progetto, sarà con noi Alexia. I libri, questa volta due campioni delle classifiche, ne parleremo con Alessandra Tedesco e un ospite speciale. L'appuntamento con le nuove tendenze, un ritorno al passato con il vintage, ma non parleremo di vestiti. Ma prima andiamo a vivere in campagna e ci porta un'amica. Sei stanca della vita in città? Sogni di cambiarla e hai voglia di innamorarti? Partecipa al nuovo reality di Fox Life. 8 contadini in cerca di amore apriranno le porte delle loro fattorie alle donne che sapranno far brecciare i loro cuori. Scopriremo chi sono, di cosa si occupano e qual è la donna dei loro sogni. Su Fox Life coltiviamo l'amore. In prima assoluta, Il contadino cerca moglie, puntata speciale. Martedì 14 aprile alle 21 su Fox Life. Già venuta una gran voglia di campagna, perché tutti diciamo sempre vado a vivere in campagna, basta, mollo tutto. Beh, adesso abbiamo un'occasione, perché Simona Ventura ci porta in campagna con questa trasmissione. Buongiorno Simona. Buongiorno, buon pomeriggio. Non vedevo l'ora di essere al sabato del villaggio con te, Marta. E certo, perché insomma il sabato del villaggio esiste anche in campagna. Perfetto, scusa. Il titolo è perfetto. La donzelletta, cioè invece dalla campagna. Esatto. Ecco. Ma senti Simona, si dice sempre basta, mollo tutto, vado in campagna. Tu cosa hai trovato in campagna? Beh, io intanto ho voluto strenuamente questo programma. Era 3 anni che lo proponevo a Sky e sono contenta che Fox Life abbia accettato questa scommessa, perché io da bambina sono stata molto coi miei nonni, in quanto ero cagionevole di salute, per cui i miei nonni vivevano in campagna, erano contadini e io ho imparato a fare la contadina, per cui comunque mi sono trovata benissimo con questo spaccato d'Italia che vi sorprenderà veramente in positivo, perché ci sono un sacco di ragazzi, un sacco di gente che torna in campagna dopo che i genitori l'hanno lasciata, no? E c'è stato un momento di boom economico in Italia che dalla cultura contadina siamo passati al terziario, alle grandi città, alle fabbriche, insomma è stato tutto un altro modo di vedere la vita e di vedere questo paese. Adesso quei nipoti che non trovano magari lavoro fisso in città, si sentono fuori posto eccetera, tornano nelle campagne e hanno questi terreni gratis praticamente in eredità, e molti li fanno fruttare, perché l'agroalimentare è in continuo movimento, in continuo sviluppo in Italia, una bilancia commerciale molto importante, una voce della bilancia commerciale molto importante, per cui si può passare dal biologico ai limoni. Vabbè, senti, i limoni però c'è dicendo che questi cerca moglie. L'olio, i pomodori, cioè guarda, ti assicuro che c'è veramente uno spaccato di pelle incredibile in questo contadino cerca moglie. Devo dirti Simona che allora, quando c'è Simona Ventura la cifra è quella dell'ironia sicuramente, ma anche di una certa onestà intellettuale, quindi non ce li farai vedere diversi da come sono, e secondo me sfatteremo anche qualche pregiudizio con questi contadini. So, Assolutamente, assolutamente. Sono tutti diversi tra di loro, perché c'è il contadino, diciamo, di 47 anni, toscano di Cortona, e poi c'è il principe dei limoni della Sicilia. Cioè, sono tutti diversi uno dall'altro, e tutti hanno voglia di avere un'occasione in amore, perché alcuni l'hanno avuta e vogliono ricominciare, altri non hanno proprio tempo di cercare la donna della propria vita. Poi molti davanti, insomma, molte donne davanti al lavoro contadino scappano, diciamo la verità, insomma, noi siamo abituate molto bene, quindi è una grande scommessa anche per le ragazze che cercheranno di fare la vita di campagna, insomma. Sì, sicuramente c'è molto di me, e in una maniera completamente diversa, perché a me piace fare avere in ogni progetto una parte di me diversa dall'altra, insomma. Tra l'altro mi piace fare le cose, diciamo, per molti anni sempre uguali, ecco. Beh, altro che per molti anni, cambi ogni due settimane, fai tutte le ma sei, non lo so come tu faccia, cioè, no, sei veramente... Marzo è stato un mese veramente molto tosto, però è stato bellissimo, impegnativo, ma mi ha dato delle grandi soddisfazioni, perché insomma, sono passata dal contadino a fare notti sul ghiaccio con Milly e mi sono divertita tantissimo, e quindi continua il mio talent sul calcio su Agon Channel, quindi insomma sono stata bene, anche se è stato molto pesante come mese. Adesso posso rilassarmi e ricominceremo a registrare a giugno, luglio, quindi a questo punto sono un po' più tranquilla, ma sono contenta del lavoro fatto. Che super, Simo. Senti, Simona, ma è vero che ci si può ancora, cioè il contadino cerca moglie inizia, però ci si può candidare, quindi insomma le signore possono scegliere. Ci sarà una puntata in cui presenteremo gli 8 protagonisti, e a quel punto le ragazze potranno chiamare, potranno mandare la loro, allegando una foto, potranno cercare il loro contadino del cuore. A quel punto noi faremo una scelta e 3 di loro verranno scelte per vivere una settimana col contadino. Beh, senti, ma perché io martedì sera sono lì davanti alla TV, perché poi mi candido, io lo scelgo e ti mando. Sì, ma guarda, molte delle mie amiche vogliono farlo. Simona, grazie per essere stata con noi. Allora, non ti chiedo niente su queste voci dell'Eurovision, se sono vere o non sono vere, ti dico solo che se vieni a Vienna a fare l'Eurovision ci divertiamo molto, ci divertiamo come le pazze. Quello è sicuro, ecco. Non posso dire né sì né no né sì, insomma. Ecco, non vedremo. Diciamo niente, vedremo, esatto. Però se vieni ci divertiamo. Simona, allora, va l'appuntamento, okay. 14 aprile, ore 21, Fox Life, il contadino cerca moglie e io scelgo il mio contadino. Grazie Simona, brava, presto. Grazie a tutti, ciao. Il sabato del villaggio. E ora il momento dei libri, ma chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. Beh, see you later alligator, che bella questa canzone. Ma perché parliamo di alligatori? Io scommetto che libri, alligatori, i nostri ascoltatori hanno già capito perfettamente, perché è un grande, grandissimo fenomeno, un libro di cui parlano davvero tutti, e ne parliamo ovviamente con la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, era un libro attesissimo, credo fossero 5 anni che i fan di Massimo Carlotto aspettavano con ansia il ritorno dell'alligatore, che è uno dei suoi personaggi storici, un personaggio seriale, un investigatore di quelli che non devono temere mai, mi viene da dire, che nella vita si chiama Marco Buratti e sta a Padova. Ma noi lo chiediamo direttamente a Massimo Carlotto. Massimo, ma perché ci hai fatto aspettare tanto per far tornare quest'alligatore? Ma non 5, ma ben 6 anni. Aiuto, ho sbagliato, attenzione. Perché ce l'abbiamo Massimo Carlotto al Sabato del Villaggio, buon pomeriggio. Tengo a precisarlo perché i lettori non mi hanno mai perdonato questo ritardo in questi anni, me l'hanno fatta pagare in tutti i modi. Eravamo arrivati ormai alle minacce della serie non ti leggerò mai più se non esce l'alligatore, al che per fortuna avevo la storia giusta e finalmente è uscito. E adesso per accontentarci ne fai uscire addirittura 2 nel 2015 di alligatori. Esatto, a novembre esce il prossimo. Allora, quando si liberano gli alligatori basta. Cioè, sono libero, altro che nelle fogne di New York c'erano gli alligatori, qua ci sono dappertutto. Massimo, questo tuo ultimo romanzo si intitola La banda degli amanti, pubblicato come sempre da EO, e anche in copertina si sottolinea il ritorno dell'alligatore perché quest'anno festeggia i 20 anni questo tuo personaggio. In questa avventura hai fatto tra l'altro avvenire un incontro un po' storico per chi segue i tuoi romanzi da tempo, cioè l'alligatore Marco Buratti incontra la, diciamo, mente criminale che, a cui tu forse sei più affezionato, che è Giorgio Pellegrini, che era già comparso in Arrivederci amore ciao e Alla fine di un giorno noioso. Come mai hai deciso di farli incontrare? Da un lato perché i lettori di Pellegrini si sono subito lamentati della notizia dell'uscita dell'alligatore dicendo e noi? E invece io avevo la storia giusta e cui avevo già pensato di mettere in piedi lo scontro epico tra alligatore e Pellegrini, perché vivono nello stesso territorio, quindi a un certo punto era inevitabile che i loro destini si incrociassero. Insomma, Massimo Carlotto è uno scrittore on demand, Marta, cioè se i suoi lettori gli chiedono e fai tornare l'alligatore, lui ce lo fa tornare, se gli chiedono fai tornare il cattivissimo Pellegrini, lui lo fa tornare. Beh, bello avere un rapporto così stretto con i lettori che sono appassionati e che davvero si appassionano alle sorti dei personaggi come se fossero reali, qualcosa di bellissimo. Massimo, in 3 parole proprio, la trama di questo La banda degli amanti, di cui si sta parlando tantissimo ed è già naturalmente ai vertici delle classifiche. Nella banda degli amanti si chiude la faida iniziata con nell'amore del bandito, il precedente romanzo alligatore. L'alligatore viene incaricato da Oriana Pozzi Vitali, ricca in Svizzera, di indagare sulla scomparsa del professor Di Lello, amante appunto di questa donna, che è scomparso misteriosamente. È una storia di ricatto, questo appunto la banda degli amanti è una storia di ricattatori che si occupano di amanti. Eh sì, infatti c'è lo sfondo sessuale in questo nuovo romanzo dell'alligatore. Grazie allora Massimo Carlotto per averci, come dire, illuminato su quello che, ve lo dico sempre, un mio amico, io proprio parlo così, dico dimmi cosa ne pensi, un mio amico a proposito di questo romanzo mi ha detto è un'edizione speciale del Carlotto World, tutto il mondo di Carlotto è messo in questa La banda degli amanti, sei d'accordo Massimo? Che bello, mi piace, sì, adesso me la rivendo subito. E vai, straordinario, grazie a Massimo Carlotto a voi, per essere stato con noi. Cantano nuoto in questa infelicità, perché parliamo di infelicità e anche qui tutti, secondo me, se sono appassionati dei libri o se hanno seguito minimamente le pagine di cultura dei giornali o i programmi televisivi, dicono beh, allora stanno per parlare di Francesco Piccolo. Eh sì, perché Francesco Piccolo è uscito poco fa, insomma da poche settimane, con Momenti di trascurabile infelicità, pubblicato da Einaudi. È un libro di cui si sta parlando tantissimo, come sempre, essendo andato da Fazio, insomma, beh, diciamo si sa, che anche un collaboratore gli era un po' raccomandato, quindi... era un po' raccomandato, e quindi insomma se ne sta parlando veramente tanto. Io però mi sono messa a leggerlo pedissequamente, sì, per dirti cosa ne penso. Lo dico agli ascoltatori, è tutto pieno di fogliettini, tutto sottolineato, tutto segnato a matita. Allora, come sempre, questi libricini di Piccolo si possono leggere in vari modi. Ci sono dei racconti un po' più lunghi che hanno 3 o 4 pagine e poi ci sono delle frasi così lapidarie. Io me le immagino sempre lette da Francesco Piccolo, quindi con il suo accento casertano, perché lui è originario di Caserta, un po' così indolente, e me ne sono segnata qualcuna. Quando non capisci di cosa parla una pubblicità, allora vuol dire che è la pubblicità di una macchina. vero, è verissimo. È verissimo, infatti ti fa riflettere così. Oppure, quando ti fanno i complimenti per il libro e ti dicono che è molto meglio di quello precedente e non ti spiegano perché è bello questo, ma perché era brutto quello precedente. Cosa penso? È come quando ti tagli i capelli che ti dicono come stai bene, cioè, allora prima facevo schifo. Esattamente. Uguale. E poi questa che veramente mi sono segnata, leggermente. La risposta che ormai sento sempre alla domanda, gassata o naturale? Pare che a Roma, mi hanno spiegato sì, anche degli amici, ormai si usa chiedere al ristorante l'acqua la leggermente, che vuol dire la leggermente frizzante. Ebbene sì, io da nordica che ho abitato tanto a Roma posso dire che a me l'acqua piace gassata, questo leggermente. E poi c'è, guarda, ci sono delle paginette che ti dedico, pagina 65 di questo momenti di trascurabile infelicità. Che sono sì momenti in cui si prova un po' di infelicità, ma poi alla fine, appunto, leggendo il libro di Piccolo si sorride. Te la dedico, Marta. Anch'io ho fatto la dieta Dukan. Ho mangiato soltanto proteine per 3 giorni, si chiama fase d'attacco, e in seguito un giorno proteine e verdura e un altro solo proteine fino al raggiungimento del peso suggerito. Alla fine ho perso 7 kg e sono molto soddisfatto della dieta, soprattutto perché ho anche imparato una serie di cose. Prima di tutto, il corpo ha bisogno di rigatoni o rosaiva molto di più di quanto si possa immaginare. Poi vabbè, continua. E poi dice, poi ho capito in modo più preciso perché le tigri e i leoni sono così aggressivi. In pratica, anche loro fanno la Dukan. È verissimo, io me lo ricordo, perché era apparso su un giornale, mi ero divertita tantissimo. Io in quel periodo stavo facendo la stessa dieta, per la quale mi prendono ancora tutti in giro, ed effettivamente è vero, cioè ti mangeresti... Diventi cattivissima. È bellissima questa cosa io che ha scritto Francesco. L'ho dedicata a Marta Cagnola perché so che lei è una fan della Dukan, invece la tedesca è una fan della dieta delle 3P, pasta, pane, pizza. Ah, vabbè, ma pasta, pane, pizza e patate è paradiso, no, però in grassa. No, rigorosamente integrali, ma io altro che Dukan sono per la dieta delle 3P. Poi ognuno... Io mi privo dei carboidrati, lo so, mi prendono tutti in giro, lo dico agli ascoltatori, mi prendono tutti in giro per la mia fissazione e per le diete. Niente, leggetevi Francesco Piccolo, così un po' di infelicità magari passa anche nei momenti della Dukan, quando uno ha lo stomaco. Sai perché mi voglio mantenere in forma? Perché? Per le 50 sfumature. No, purca. Scherzo, è solo per fare un link al nostro consiglio. Oltre le 50 sfumature, noi tutte le settimane andiamo oltre le 50 sfumature per proporre delle valide alternative a tutti coloro che si fossero appassionati, a tutte coloro che si fossero appassionate alla letteratura erotica. Però questa volta Alessandra non ha in mano un libro, ma un CD che adesso lancio dall'altra parte del vetro, perché ti ho portato un audiolibro. Senti un po'. Marco Baliani, la bella voce, perché gli audiolibri vanno letti bene e vanno ascoltati in queste belle registrazioni. Beh, devo dire che l'abbiamo riconosciuto. Vabbè, un gran classico. Uno degli incipit più famosi forse della letteratura. Qui andiamo ben oltre le sfumature. Lolita. Lolita di Vladimir Nabokov. Poi qualcuno insomma potrà disquisire se sia un libro o meno oltre le sfumature, perché insomma quando è stato scritto aveva un suo contesto culturale. In alcuni casi capisco che letto in questo contesto culturale oggi può anche essere disturbante, perché insomma Lolita era un'adolescente che aveva una storia d'amore e di sesso con un uomo molto più grande di lei. Resta un bel romanzo, resta un romanzo da leggere e da prendere però in quanto romanzo, e poi ci faremo molte riflessioni. Alessandra, che bello, parliamo anche di audiolibri, mi piace molto. Portacene ancora al Sabato del Villaggio, ma vorrei anche ricordare l'appuntamento col cacciatore di libri, a parte il podcast sul sito radio24.it. Evviva come il siamo podcast. Belli, come siamo belli nelle foto. Siamo bellissime. Abbiamo le foto nuove sul nostro sito. Allora, il cacciatore di libri tutti i sabati alle 22:05, poi per chi si sveglia presto la mattina alle 6:30, ormai è passata, però ve lo ricordo, non si sa mai. Questa sera di cosa parliamo? Parliamo di un romanzo d'amore e di sesso che si intitola Il cuore inesperto. Vabbè, ti ascolterò questa sera, a presto Alessandra. Bye bye. Bye. adesso questo CD di Lolita letto da Marco Baliani me lo rubo perché voglio ascoltarmelo io, lo rubo ad Alessandra Tedesco. Noi ci ritroviamo tra poco perché dobbiamo parlare di nuove tendenze, dobbiamo parlare di consumi, ma dobbiamo anche aspettare un'amica che sta arrivando per un grande ritorno. L'abbiamo detto, si parla tanto di anni 90, lei è stata la regina assoluta degli anni 90, ma è pronta per tornare in forze con un nuovo progetto, ci spiegherà tutto in anteprima. Intanto però vi ricordo tutti i modi per contattarci: il 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi SMS. Se invece volete darci un segno della vostra presenza via Twitter, c'è l'account, il mio, Marta Cagnola, ma anche l'hashtag ISDV, il sabato del villaggio. Ma poi ci sarà anche l'hashtag RadioTube, perché tra mezz'ora, dalle 17 alle 18, ci sarà l'appuntamento con il nostro appuntamento, appunto, con l'attualità dalla rete della rete con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Tutto questo tra poco, perché adesso abbiamo una breve, brevissima pausa, ma poi saremo ancora insieme con il sabato del villaggio. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il sabato del villaggio. Ed è l'ultima mezz'ora del sabato del villaggio, perché poi dopo il GR delle 17 ci trasformiamo, ci cambiamo d'abito, perché è il momento di RadioTube. Ora però, insomma, nel nostro villaggio globale, il nostro tutorial per il nostro weekend, la guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, cinema, ma anche tecnologia e libri, beh, adesso è il momento dei consigli sui consumi e lo facciamo come al solito con la nostra Maria Luisa Pezzali. What we are and what we wear is vintage clothes. Beh, questa volta abbiamo scomodato addirittura Paul McCartney per parlare di costumi e di nuove tendenze. Paul McCartney cantava Vintage Clothes. Maria Luisa, ciao, buon benvenuta. Pomeriggio Marta, un saluto a tutti. Parlava di Vintage Clothes, cioè di vestiti vintage. Parliamo di vintage, però non di vestiti? No, non di vestiti, questa volta lo abbiamo fatto qualche mese L'abbiamo già fatto. Se ti ricordi, perché in realtà il vintage è una tendenza che ha mille sfumature, comprende non solo i vestiti, gli accessori, ma anche per esempio il design con il modernariato, oppure il beauty, perché anche la bellezza può essere vintage. Questo mi stupisce di quindi più. Questi sono i due settori che abbiamo scelto, ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti, che sono Andrea Franchi e Carmela Boccomino. Buon pomeriggio a tutte e due. Buon pomeriggio a voi. Allora Andrea, partirei da te, perché sei l'ideatore e l'organizzatore della Milano Vintage Week, che si terrà dal 16 al 19 aprile. Andrea, ce lo confermi? Il vintage non è solo abbigliamento? Ve lo posso confermare, vi posso confermare che con il termine vintage, ovviamente sì, il termine vintage ha un significato che voi conoscete sicuramente molto bene e comunque racchiude, rappresenta tutto ciò che ha diciamo un'età minima di 20 anni, no? Devo dire che spesso con il termine vintage si va ad identificare tutto ciò che ha rappresentato nelle varie epoche, diciamo, la massima espressione della moda, del design, legata proprio a quel periodo, no? E quindi viene racchiuso tutto sotto questo termine vintage, dannata. Non rappresenta appunto solo moda, ma per moda comunque si può intendere anche design, quindi tutto ciò che è legato all'arredo, all'accessorio, e come dicevi tu, mi permetto di darti del tu, certo, anche per quanto riguarda il make-up. che è un argomento che tratteremo ampiamente questa stagione a Milano Vintage Week la prossima settimana. Passiamo subito allora a Carmela, intanto preparati, ti chiederemo poi gli oggetti, le epoche di riferimento per quanto riguarda il design. Carmela Boccomino di Elizabeth Arden, voi curerete uno spazio all'interno della Milano Vintage Week. Vintage nel beauty che cosa significa? Ma già l'associazione tra le due parole vintage e beauty sicuramente dà ampio spazio a quelle che sono delle immagini, idee di bellezza d'altri tempi, in termini soprattutto di colore, di make up, come preannunciava anche Andrea. Tant'è vero che il maquillage, il make up ha da sempre interpretato e anche stato un po' il riflesso dell'identità e degli umori delle varie epoche, diventando anche un portavoce di significati simbolici e culturali che permettono di rileggere il passato e di riviverlo oggi con gli strumenti del mestiere, quindi i rossetti, ombretti e i pennelli. Vintage nel beauty quindi è sicuramente ispirazione al glamour, all'allure delle grandi dive, ad esempio degli anni 40, dei 50 del cinema, oppure alle grandi donne degli anni 70 e alle donne aggressive invece e molto forti degli anni 80. Ed è questo quello che farà Elizabeth Arden in occasione della Vintage Week. Sarà proprio un ripercorrere le storie della bellezza della cosmetica attraverso le testimonianze di campagne stampa d'epoca e look che ricreeremo sulle visitatrici della kermesse. Io già sono pronta a iscrivermi agli incontri, ho visto che sul sito milanovintageweek.com ci sono tutte le indicazioni. Maria Luisa, prima citavi le epoche di riferimento e qualche linea guida da seguire. Io chiederei quindi proprio ad Andrea Franchi. Andrea, in particolare a me incuriosisce molto il modernariato, il design. Quali sono le epoche? Cosa dobbiamo sapere per avvicinarci a questo ambito? Da sapere possono essere tante le cose, nel senso che tendenzialmente ci si avvicina un pochettino frequentando appunto quelle che sono le esposizioni, leggendo quello che la stampa ci propone, perché c'è comunque anche una stampa di settore legata al design che spesso rievoca e rappresenta nuovamente oggetti e mobili che hanno appartenuto a certe epoche. Diciamo che tendenzialmente oggi il pubblico si rifà a quelle che sono state un po' più le epoche un po' più significative per quanto riguarda la storia dell'Italia e dell'Europa in generale, forse anche dell'America, che sono gli anni 50, i mitici anni 50, gli anni 60. Ci si rifà spesso e volentieri ad alcuni oggetti, ad esempio, non so, per quanto mi riguarda o comunque in linea generale vanno molto di moda i sideboard anni 50-60, che sono, il sideboard è una specie di, una sorta di credenza lunga e bassa con antecassetti, oppure non so, le tipiche poltroncine anni 60 con la seduta bassa. Poi quest'anno, diciamo, sotto i riflettori abbiamo gli anni 70 e quindi tutto ciò che ricorda i mitici pantaloni a zampa e i giubbottini scamosciati, passando ovviamente a parlare di abbigliamento. Quindi anche magari le palle stroboscopiche nelle discoteche. Io sono già pronta a mettermele in casa. Assolutamente. Sì. sì, anzi, hanno un fascino incredibile. Ecco, Carmela, abbiamo citato gli anni 50, mi viene in mente una serie TV come Mad Men, questa allure insomma molto sofisticata e che fa molto tendenza. Ecco, per il trucco che cosa possiamo dire di questo periodo? Allora, gli anni 50 sicuramente è stato il decennio delle grandi dive, delle icone di stile. Dobbiamo immaginare ad esempio appunto queste donne con gli occhi languidi, sottolineati da eyeliner nero con un leggero effetto smokey eyes nei toni del grigio, ma soprattutto labbra rosse, labbra rossissime, anche perché erano gli anni appunto delle grandi attrici cinematografiche. Con la tecnologia del Technicolor le labbra rosse bucavano lo schermo. Passando invece agli anni 60, il focus si è sicuramente spostato sullo sguardo, sugli occhi. Cominciavano ad essere molto più comuni e utilizzate le nuance di ombretti nei toni del ghiaccio, del celeste, del rosa. Tendevano a colorare moltissimo l'occhio. parecchio. Erano gli anni della Dolce Vita e della Beat Generation anche, quindi sicuramente l'attenzione era sullo sguardo, e per quanto riguarda le labbra tendevano a colorarle con un po' di rosa, le lasciavano un pochino più sottotono. Grazie, molte ispirazioni Marta. Io già voglio truccarmi e voglio rimodernare la mia casa con un po' di vintage. Mi piace molto l'idea, Maria Luisa. Andrea Franchi e Carmela Boccomino, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Vi aspettiamo tutti a Milano Vintage Week dal 16 al 19 aprile. Veniteci a trovare. Ci saremo. Maria Luisa, adesso però, secondo me è il momento di dedicarci a qualche consiglio anticrisi. Ci colleghiamo con la nostra Cristina Lazzati. Chissà che cosa ci ha preparato Cristina. Buon pomeriggio, Cristina. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Ciao Cristina, dal passato al futuro, perché so che tu oggi ci vuoi parlare di futuro, di strategie anticrisi ma nel futuro. Sicuramente, anche perché proprio oggi sono andata a visitare il nuovo IKEA Temporary e devo dire che lì mi sono venute un sacco di idee che mi piace condividere con voi, perché il risparmio nel futuro sarà anche un risparmio per quello che riguarda tutto il nostro vivere, quindi all'insegna della sostenibilità, o almeno così credo ce l'auguriamo tutti. IKEA Temporary è uno spazio che IKEA ha creato all'interno della città di Milano. Per la prima volta si esce dai grandi spazi fuori dalla città e si entra in città. Con uno spazio tra l'altro molto accogliente, ben pensato, come spesso succede con IKEA, ci sarà il bar e le immancabili polpette, a cui anzi vi dico si sono aggiunte anche quelle vegetariane, per cui per chi non ama la carne, la polpetta svedese adesso è anche vegetable. Ma comunque lì dentro, con i ragazzi dell'università di Lund e di Eindhoven, hanno inventato quella che sarà la nostra cucina, o potrebbe essere la nostra cucina da qui a 10 anni. Ve la racconto. Si tratta di uno spazio peraltro non molto grande, quindi ci sta un po' dappertutto, addirittura il lavello basculante, per cui si può scegliere se buttare l'acqua nella normale scarico, piuttosto che invece rigirandolo dall'altra parte l'acqua va a bagnare i fiorellini che stanno sopra e che ornano la nostra cucina. La lavastoviglie, che come tutti sappiamo fa un sacco di vapore, bene, sopra la lavastoviglie c'è un cassettino dove possiamo mettere i nostri semini e veder germinare grazie al vapore questi semini e trasformarsi in piantine che poi andranno ad arricchire questa cucina sempre più green. A lato, volendo, si possono inserire bottiglie, carte, eccetera, come per il riciclo, solo che c'è un meccanismo per il quale li rendiamo subito compattati e quindi occupiamo molto meno spazio nel nostro riciclo. Alla fine una cucina di questo genere rende tutto molto più semplice e nel contempo ci fa risparmiare acqua e energia per dare vita a nuova vita. Quindi continuiamo pure a consumare, ma consumiamo con intelligenza. Beh, grande ottimizzazione. Voglio di già tempo, tutto, spazio, risorse. Hai detto futuro, ma io lo vorrei già nel presente. Guarda, io infatti l'ho visto, ho detto questa la voglio, mi ha detto no, bisogna aspettare una decina d'anni prima che ha dei prezzi IKEA, perlomeno questa cucina. Inoltre, questo è molto carino anche per insegnare ai nostri figli a riconoscere il cibo, a mangiare meglio, il tavolo centrale, al di là che si può alzare ed abbassare, quindi risparmi spazio, da una parte ci mangi, dall'altra se lo alzi ci lavori, ha la possibilità attraverso una cappa, almeno apparentemente sembra una cappa, ma in realtà è un sistema di fotocellule che, mettendoci sotto le verdure, la pasta e il riso, li riconosce e ti suggerisce anche delle ricette sane proiettate direttamente sulla tavola per cucinarle. Sempre nell'IKEA Temporary ci sono 3 cucine disegnate da 3 famosi architetti, tra cui anche la nostra Paola Navone, dove si interpreta la cucina all'italiana, cui si affianca una cucina invece pensata per il bambino. Addirittura si è riuscito a far stare un lettino, casomai se la cucina prende troppo tempo, vuole stare con la mamma, si può riposare con la sua cucina giocattolo. Come sappiamo, i nostri bambini devono imparare a toccare la frutta e la verdura e imparare che il latte non è una barretta al cioccolato. Che bello, mi piace tutto molto e abbiamo parlato tanto di cucina in questo sabato del villaggio perché evidentemente è una grande, grande passione. Grazie a Cristina Lazzati di essere stata con noi, a presto. Ciao Cristina. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao. Invece con te Maria Luisa l'appuntamento domani a Essere Avere. Domani a Essere Avere continueremo a parlare di food, perché parleremo di social eating e turismo collaborativo, di come offrire accoglienza vacanza in casa propria, con pernottamenti, pranzi, cene, ma non solo, anche concerti, Marta, spettacoli teatrali attraverso le piattaforme della Sharing Economy. Domani alle 15. Grazie Maria Luisa, a domani. Il sabato del villaggio. Ve lo abbiamo anticipato, ci sono già i suoi fan che mi stanno scrivendo in tutti i modi su Twitter, al mio account @MartaCagnola, l'hashtag è ISDV. Ve l'abbiamo dunque anticipato, è il momento di un'amica che ci è venuta a trovare, io sono molto molto contenta, eccola qui. Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come perché al sabato del villaggio è venuta a trovarci un'amica. Posso dire che è un esordiente, che si sente tale, perché prima abbiamo bevuto un caffè e ha detto mi sento un esordiente. Buongiorno ad Alexia. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie. Ti chiamo Alexia o Alessia? Come Alexia, ti chiamano nella vita di tutti i giorni? Spesso Alexia. Ormai. Bello questo spirito da esordiente, perché che cosa è successo nella tua vita? Si riparte? Sì, si riparte, ma soprattutto diciamo che riprendo un cammino che avevo momentaneamente così lasciato in stand-by. Mi ricordo una volta un amico, Brumotti, mi disse: amica, la smetti di stare con le frecce, con le quattro frecce? E dico: guarda, adesso penso alle mie bambine, penso al mio lavoro di live, ma soprattutto ho fatto un lavoro su me stessa. Ho lavorato tantissimo all'estero e ho riprovato quelle emozioni che provavo nel 96, quando sono usciti i miei primi singoli, ancora storici in alcuni paesi europei, per cui ho ritrovato quella voglia di rimettermi in gioco, per cui tutta la mia banda l'ho riunita e ho detto: ragazzi, dobbiamo fare un disco che racconta un po' tutto quello che ho vissuto in questo periodo, il perché mi sono un po' così assentata, ma perché c'era un motivo, c'era una voglia di ricominciare e andare in una direzione precisa, e spero in questo progetto di averlo fatto capire. Disco che riparte da un singolo che esce in una data particolare. Sì, esce in una data particolare e anche questo per me rappresenta una novità, il 17, venerdì 17. Grandissima, sfidiamo tutto e tutti. Per cui non so se posso già dire il titolo del singolo. Si chiamerà Il mondo non accetta le parole, quindi... È già un manifesto, è il titolo. È già un manifesto e infatti mi ricordo quando lo stavo così... abbozzando con il mio chitarrista, che è il coautore praticamente di gran parte dell'album, dissi: cioè, già il titolo vale comunque il tempo, la perdita di tempo solo ad ascoltarlo, perché è veramente toccante. Poi insomma devo dire che mi ha dato grande, grande soddisfazione, è un pezzo che mi accompagna ogni volta che lo canto, mi culla. Abbiamo anche il titolo dell'album, però, perché non è solo singolo, ma anche album, che arriverà quando? Il 5 maggio, anche lì ovviamente una data particolare. E fu? Esatto. Abbiamo fatto tutto il liceo per bene. Sì, io ho due figlie, una nata il 14 febbraio e una il 4 luglio. Io le cose non le faccio nelle a caso. Date normali mai. Mai. Quanti anni hanno adesso le tue figlie? La più grande ha 8 anni e la più piccola 3 anni e mezzo. Beh, amori, però che vuol dire che adesso sono anche ascoltatrici? L'hanno sentito il disco? Ti hanno sono provato? Sono ascoltatrici, mi hanno provato, hanno visto la bozza del videoclip e soprattutto la più grande è rimasta sconvolta e positivamente ovviamente colpita e mi ha detto: mamma, perché non mi hai portato? Ah, hai già cresciuto una bimba curiosa della musica. Lei ama l'arte. Bello. L'album si chiama Tu puoi se vuoi, perché ovviamente rappresenta il mio manifesto, no, attuale. Voglio dimostrare a me stessa prima di tutto che voglio percorrere le cose in una determinata maniera, e quindi però ho dovuto veramente tirarmi sulle maniche e buttarmi, fare un salto un po' così, come si vuol dire, nel vuoto. Ti sei tirata sulle maniche anche nella foto del nuovo sito, tutta tatuata, però tutta tatuata colorata. Non sono veri tatuaggi, però della foto del sito, confessalo. Sai, tu puoi, se vuoi, è un po' questo il significato. In questo momento ti dirò, è una grande moda, no? Quella di avere tutti questi disegni stupendi sul corpo. Avrei dovuto cominciare 10 anni fa per poter avere un risultato così grande, però posso garantirti che sono state 3 ore lunghissime di body painting molto molto, diciamo, dettagliato, e che mi hanno dato poi la possibilità di avere queste foto meravigliose. Belle, belle le foto, bello lo spirito, nuovo sito. E quando si ritorna, anche se poi appunto non è che hai mai smesso di fare live o di fare, hai fatto televisione, ti abbiamo visto in tante vesti, quando però si ritorna così prepotentemente sul mercato dopo qualche anno, c'è la novità dei social, c'è la novità di un rapporto diverso anche attraverso la rete, quindi immagino che tu abbia lavorato anche su questo. Ma assolutamente, la prima cosa che ho voluto curare e cambiare e dimostrare il cambiamento era netto, era proprio sui social, sul sito, perché il sito comunque rappresenta oggi il biglietto da visita numero uno, fondamentale, forse più importante di tutta la parte, diciamo, forse musicale, che deve essere assolutamente di sostegno, però devi subito dare un segno forte dal punto di vista sito, social, eccetera. Mi sono documentata tantissimo prima di decidere come lo volevo. Ovviamente sono andata a vedere i siti più belli delle mie colleghe internazionali e nazionali, ho espresso pareri con il mio team, che comunque è un team di persone molto giovani e molto avanti su questo aspetto, e alla fine abbiamo scelto questa linea che, insomma, mi sembra apprezzata, insomma, fuori dal 30 di marzo, e insomma sta dando buoni frutti. Sono molto contenta. Ti chiedo l'ultima cosa: è un periodo in cui, ne abbiamo parlato spesso in trasmissione, si parla tantissimo degli anni 90. Chissà perché in questo periodo sono particolarmente di moda, tornano vecchie trasmissioni, c'è il karaoke, c'è il Rai 3 che ha fatto questo recupero soprattutto di una certa televisione degli anni 90. E spesso si riascoltano anche le tue canzoni di quell'epoca. Tu poi nel frattempo hai cambiato pelle mille volte. Che impressione ti dà quando si risentono quelle cose, si rivedono dei video? Che sensazione ti dà? Beh, ti dirò positiva, perché alla fine quelle cose erano fatte con semplicità, ma quella semplicità difficilissima poi da mettere insieme, perché sono le cose che rimangono. Banalmente, quando le ascolti sembrano le cose, solite cose commerciali, è difficilissimo costruire un brano in quel modo, e devo dire che il produttore dell'epoca in quello era il numero uno. La cosa divertente è che alcuni di questi brani sono remixati, sono riutilizzati. Questo significa che comunque le melodie dell'epoca erano melodie alla fine che rimanevano. Ti dico, tu mi dici che effetto ti fa. Io continuo a lavorare tantissimo all'estero e a riproporre queste canzoni, che di volta in volta cerco di modernizzare, magari con dei suoni un pochino più aggressivi, visto che comunque i tempi cambiano anche in quel senso. Per cui mi sembra ieri che li facevo, perché li sto continuando a fare, sono ancora, appartengono ancora a me, comunque sono parte di me e li porto dentro. Straordinario. Tanto poi, se anche rivedi i video, non ti possono fare nessun effetto perché sei identica. Poi io ti chiederò come mai, fuori onda, a parte la pettinatura, però sei identica. Allora aspettiamo venerdì 17 aprile, è una data fighissima. Grazie Alexia, aspettiamo il tuo singolo e poi l'album. A presto. Grazie, ciao.